di erogazione e di sgancio del prodotto è talmente avanzata che possiamo pensare di andare a customizzare lo spazio in base al prodotto che decidiamo di vendere. I distributori automatici escono già con tasche maggiorate per poter erogare anche prodotti come ad esempio un pacco molto voluminoso. Ci sono dei casi molto importanti in Italia, come ad esempio i distributori che vendano prodotti di elettronica, ci sono distributori che distribuiscano articoli per la bellezza, quindi dallo smalto al rossetto, ci sono ad esempio ortofrutta che hanno predisposto all'esterno del negozio un distributore per la distribuzione di prodotti negli orari di chiusura. I distributori automatici ormai possono essere posizionati in tutti i posti, nelle stazioni di servizio, nei centri commerciali. Più sono al pubblico, più sono interattivi e più c'è la possibilità di catturare clienti e consumatori che possono essere attratti da questa nuova tecnologia. Ok, uno contro uno, il primo che arriva. 5 dice l'ufficio. Domande? Sì, Sheldon. 5 cosa? Palle nel canestro. Vi ricordate le cose terribili che ci facevano i bulli? Sì. Ora li capisco. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Un unico abbonamento per l'accesso illimitato a 20.000 palestre in 2000 città e 10 paesi nel mondo, con una quota fissa da pagare mese per mese o anche solo per un giorno, senza contratto, limiti di tempo, scadenze e penali di cancellazione, per praticare 500 attività sportive dallo yoga al crossfit. È quanto promette Gym Pass, realtà brasiliana leader mondiale nel settore dei benefit aziendali legati al wellness, sbarcata da poco anche nel nostro paese. Abbiamo parlato con il country manager Italia Rodrigo Silveira. Le persone di solito hanno tre grandi motivazioni per non svolgere attività fisica o per non andare in palestra: o ci dicono che non hanno tempo, o che non gli piace andare in palestra, o che costa, troppo, che gli abbonamenti costano troppo. Quindi noi abbiamo sviluppato un servizio che può rispondere a questi tre motivazioni. Per il tema del tempo, la flessibilità di poter trovare una palestra, un centro sportivo, ovunque si trovi, è già una risposta a questa motivazione. Per quelle persone che ci dicono che non gli piace andare in palestra, noi offriamo tutte le possibilità di scelta, quindi sono più di 500 attività fisiche diverse. Possiamo offrire la yoga, il pilates, aqua gym, crossfit, bootcamp e tante altre attività diverse. Quindi sicuramente una persona può trovare un'attività che gli piacerebbe fare. E per la motivazione del costo, una volta, e questo pensando propriamente sulla soluzione B2B, una volta che l'azienda sostiene la maggior parte del costo per i dipendenti, l'accesso alle palestre, al mondo dell'attività fisica si diventa molto più attrattivo dal punto di vista economico. Perché voi appunto non vi rivolgete solo ai singoli utenti che possono acquistare il pass, ma anche alle aziende che possono offrire questo abbonamento come benefit aziendale, quindi investendo sulla salute dei propri dipendenti? Noi viviamo adesso in un momento dove i responsabili delle risorse umane di grandi aziende vivono proprio un ambiente di costante sfida. Attualmente devono pensare ad una soluzione per diminuire l'assenteismo, per incrementare la produttività dei dipendenti, avere un ambiente di lavoro piacevole ed essere attrattivi come aziende per riuscire a creare un interesse nel maggior parte del talento. In questo scenario, le aziende che hanno deciso di investire sulla qualità della vita del lavoratore hanno già identificato che possono trovare una soluzione a questi aspetti implementando un piano di well-being. È già dimostrato che investire sul piano di well-being, offrendo ai dipendenti un benefit che possa migliorare il loro stato di salute, aumenta la loro motivazione. Inoltre, un benefit legato all'attività fisica ha un alto valore percepito da parte del dipendente, perché dimostra che l'azienda, la società è attenta al suo benessere e questo porta senz'altro un ritorno in termini di attrazione e conservazione dei dipendenti. continuiamo a parlarne tra pochissimo, ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché poi nella seconda parte parleremo anche di specchi e design e poi della rivincita al femminile nelle materie STEM, le materie scientifiche. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, stiamo parlando di Gym Pass, realtà brasiliana sbarcata da poco anche nel nostro paese, che ci permette di avere accesso a una rete di palestre in tutto il mondo, una formula studiata anche per chi è in vacanza o in trasferta per lavoro, ci ha detto il Country Manager Italia Rodrigo Silveira. A chi viaggia molto per lavoro, a chi vuole provare nuove esperienze ogni giorno. La nostra soluzione, oltre ad essere molto flessibile, semplice e moderna. Questo significa, infatti, una persona con soli 3 click diventa membro del più grande network di palestre in tutto il mondo. Infatti, Gym Pass nasce nel 2012 in Brasile della necessità dei 3 fondatori. Tutti e 3 lavoravano per società di consulenza, cioè viaggiavano con una certa frequenza per tutto il paese. Non avendo quindi l'opportunità di praticare attività fisica o non sfruttando l'abbonamento che andavano a stipulare con la palestra vicino al loro domicilio. Da qui nasce l'idea di sviluppare un marketplace che permettesse a tutte le persone che viaggiano per lavoro o che non volevano legarsi ad un'unica struttura perché volevano provare nuove attività sportive, di svolgere attività fisica acquistando un pass per una singola palestra e pagare per un reale utilizzo. Il vostro è un modello di business che fa riferimento alla cosiddetta subscription economy che sta contagiando molti settori, il caso principe che si cita è Netflix, ma in molti dicono che sarà il modello di business del futuro. Sì, assolutamente. Noi, la soluzione che noi offriamo è molto in linea con questi che offrono questi altri servizi come Netflix che hai menzionato tu. Credo che la cosa in comune che hanno questi modelli di business è di eliminare tutte le possibili inefficienze che c'è in quello mercato lì e offrire flessibilità. È un servizio che si diventa accessibile a tutti. È offrire a tutti la possibilità di usufruire dei servizi ovunque si trovino, di una forma moderna, semplice, facile e accessibile a tutti. Mago dello specchio magico, sorgi dallo spazio profondo. Tra vento e oscurità io ti chiamo. Parla! Che vuoi conoscere, mia regina? Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Focus sui trend. Focus sui trend dedicato al design, questa settimana parliamo di uno degli elementi d'arredo essenziali, fa parte dei fondamentali, per così dire, anche l'architettura lo sta riscoprendo e poi elemento simbolico evocato in molti miti e racconti, parliamo dello specchio e lo facciamo in compagnia di Lucia Cromezca di Future Concept Lab. Ciao Lucia, ben trovata. Buonasera. Da dove iniziamo? Il primo caso che hai selezionato? E dall'Apple Mirror. Allora, il web developer e graphic designer Rafael Dymek ha creato un specchio davvero sorprendente e l'ha chiamato l'Apple Mirror. Questo specchio che sembra un iPhone gigante da mettere sulla parete è uno specchio touch screen che uno potrebbe fare tutto ciò che farebbe con il proprio iPhone, cioè WhatsApp, Facebook, Spotify, persino Netflix. Ha una interfaccia che riprende un po' le linee dell'iOS 10. In realtà sembra che dietro ci sia un sistema operativo desktop modificato, fatto proprio per far sembrare tutto uno specchio. Dopo 45 secondi di inattività il sistema va in standby e l'Apple Mirror appare come uno specchio ordinario da potersi rispecchiare. Non è un progetto Apple e purtroppo per ora non è neanche possibile acquistarlo. Quindi un prodotto non ufficiale. Lo sottolineiamo, non si può andare nei negozi Apple a cercarlo, però in un futuro, esatto, non si sa mai. Dalla tecnologia alla moda, Lucia, con il secondo caso. È un caso molto particolare perché il progetto è stato commissionato da Fifth Sense, che è una nuova partnership tra Chanel e la rivista ID. È stato curato dalla scenografa S. Devlin, nel mondo dello spettacolo è molto rinomata per le sue produzioni teatrali, per l'opera Royal Opera House, ma anche con il suo lavoro con artisti tipo Adele o Kanye West. Allora, lei ha creato una installazione che si chiama Mirror Maze, un labirinto di specchi spiazzante, che è stato presentato qualche mese fa all'interno di un vecchio magazzino di Peckham a Londra. Si tratta di un progetto che offre ai visitatori una esperienza intensa e unica, tutta fatta di specchi, con una durata anche lampo, solo 5 giorni, un investimento incredibile per 5 giorni, è un labirinto di specchi con una stanza molto particolare che echeggiava la forma della scala che portava l'appartamento privato di Coco Chanel in Rue Cambon a Parigi nel lontano 1920, cioè una esperienza immersiva che era anche accompagnata da una fragranza, un profumo esclusivamente creato dal profumiere Olivier Polge, che è un collaboratore storico di Chanel. E non è una coincidenza che quel labirinto di specchi molto spiazzante e unico è stato anche riportato in qualche modo alla sfilata Haute Couture di Chanel il mese scorso, come da sempre a Grand Palais, e che ha proposto una scenografia spettacolare, che è una vera e propria fantasmagoria di specchi, dalla passerella, tutta di specchio, all'installazione centrale attorno alla quale sfilano le modelle, che riprende di nuovo la forma della scala dell'appartamento privato di Coco Chanel. Passiamo a un'azienda storica del design italiano e un prodotto che verrà presentato proprio tra pochi giorni al Salone del Mobile. Non vedo l'ora di vedere come Gufram, il marchio più radicale del design italiano, presenterà, no, tra qualche giorno in occasione della Milano Design Week 2017, in anteprima il suo primissimo specchio. Questo specchio, che si chiama Broken Mirror, in edizione limitata di 77 pezzi, è firmato dal duo newyorkese Snarkitecture. E c'ha un elemento veramente particolare, la sua cornice, che sembra una crepa che riflette lo spazio che lo circonda e allo stesso tempo crea un effetto ottico estraniante, come se ci fosse una finestra nella nostra casa verso una realtà parallela. La superficie riflettente, infatti, è circondata da una cornice di morbido poliuretano, che ovviamente richiama il materiale Gufram per eccellenza, il poliuretano, ed è sbozzato interamente a mano, è per questo che ogni Black Mirror è leggermente diverso e quindi un pezzo unico. L'effetto simile alla texture del muro viene creato con il Guflac, anche lì una speciale vernice brevettata da Gufram che viene stesa interamente a mano. Si gioca tra il morbido e il non morbido. Sembra proprio uno squarcio in un muro, è veramente molto molto bello, come sempre le immagini sulla nostra pagina Facebook. Dicevamo in apertura, Lucia, della riscoperta anche in architettura, abbiamo spazio per un ultimo caso che ci parla proprio di questo. Un esempio incredibile. Remco Sebring, il suo studio di architettura, ha disegnato una casetta sul tetto di un palazzo, tutta fatta di specchi, per essere abitata, sorpresa, da un ragazzino di 12 anni. Si chiama Mirror Mirror e si trova in una piccola cittadina olandese. Rappresenta una sorta di versione moderna della casa sull'albero. È collocata in cima al tetto di un palazzo storico, è collegata da un corridoio interno con la casa principale della famiglia, però la nuova struttura, questa casetta, è completamente rivestita di vetro a specchio in modo da assicurare dall'interno una visuale a 360 gradi sul paesaggio circostante, perciò molto spettacolare la vista, è un rifugio trasparente ovviamente, che però si mimetizza durante le ore diurne perché il riflesso del mondo esterno si stampa sugli specchi, in questo modo sparisce, ma anche in questo modo tutto quello che accade al suo interno resta invisibile dagli occhi e sembra che non ci sia alcuna barriera tra lo spazio abitativo e il cielo. È incredibile, bisogna assolutamente vedere le immagini. Beh, insomma, un progetto per un dodicenne che piace molto anche ai grandi, però io mi ci metto assolutamente. Fortunatissimo. Grazie a Lucia Cromesca, alla prossima. Alla prossima. Il consumautore. Mi occorrono dei numeri che ancora non esistono. Trovatemi un matematico prima che i russi piantino una bandiera sulla luna. Serve un computer alla squadra collaudi. Catherine è la tipa giusta. Gestisce qualunque numero abbia davanti. Sei la prima persona di colore. Comportati bene. Lei dovrebbe essere un ingegnere. Sono una donna nera, non considero niente impossibile. Sono sotto una navetta spaziale. Stiamo vivendo l'impossibile. Il sistema di elaborazione dati dell'IBM. Dobbiamo sapere come programmarlo. Molto bene. Franchip 7, mi ricevi? Passo. Era Il diritto di contare, il film che racconta la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che collaborò con la NASA sfidando razzismo e sessismo. È lo spunto dal quale partiamo questa sera per la riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo Francesco Morace. Ben trovato, Francesco. Buonasera Maria Luisa e a tutti i radioascoltatori. Questo film, oltre a essere un bellissimo film, godibilissimo, mette davvero insieme in modo straordinario questa doppia possibilità di affrontare la discriminazione e soprattutto è bello perché parte da una storia vera, no? Come spesso commentiamo in questi minuti finali della trasmissione, ormai il cinema e anche la letteratura lavora davvero sui casi veri, reali, come dire, la realtà va al di là della fantasia, quindi questo gruppo di donne afroamericane che affrontano da un lato la discriminazione anche semplicemente per essere delle donne, in più sono anche afroamericane, e questo ci introduce al grande tema anche del nuovo rapporto del femminile con il famoso acronimo STEM, no? Quindi scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, perché ad esempio dal punto di vista della ricerca, anche della social innovation, questo possibile incontro felice tra pensiero femminile e scienze esatte, crediamo possa essere una straordinaria piattaforma di sviluppo. È un tema molto di moda, ma è anche una sfida che mette in evidenza quanto siano radicati gli stereotipi anche a livello culturale, familiare, scolastico, in un modo in cui magari certe volte non ce ne accorgiamo completamente. Sì, è uno di quei famosi stereotipi nascosti per cui gli stessi genitori in buona fede magari spingono le loro figlie a coltivare, diciamo, interessi che sembrano più adatti, no, al pensiero femminile. In realtà, per fortuna, piano piano i dati cominciano a dirci che c'è un'inversione di tendenza, anche perché in genere poi il mondo femminile sa distinguersi e cominciano a esserci anche in Italia dei casi di ragazze molto brave che superano in votazione anche i loro colleghi maschi. Grazie a Francesco Morace, grazie a Paolo Corleoni in regia. Essere Avere torna domenica prossima. Come sempre, un saluto da Maria Luisa Pezzali.